Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Andiamo subito al tema che ha già toccato anche Oscar Giannino, chiaramente con un altro approccio e altri interventi. Insomma, non poteva concludersi, ammesso che sia concluso, ma non mi sembra che vi siano molte altre possibilità in maniera peggiore per l'Italia, la vicenda Fincantieri e i cantieri navali francesi Estex. Ripeto, una vicenda che va al di là, e questo è chiaro abbastanza a tutti, della semplice proiezione in campo economico, fermo restando che è un'operazione importantissima per Fincantieri, che fattura sostanzialmente a ricavi per 4 miliardi e 400 milioni, avrebbe acquisito Estex France, ossia principali costruttori di la principale gruppo di cantieristica francese, che però vale un quarto, vale un miliardo di euro. L'abbiamo spiegato moltissime volte che l'interesse era soprattutto per il bacino di carenaggio a Saint-Nazaire, dove appunto c'è un bacino da un chilometro, che permette di costruire navi da 220.000 tonnellate contro le 180.000 tonnellate che è il limite di Monfalcone, dove opera chiaramente Fincantieri. Il problema è che non è solo un tema di carattere economico, cioè io mi chiedo come faccia questo ministro dell'economia francese Bruno Le Maire a dire il nostro obiettivo è difendere gli interessi strategici della Francia, dopo che il governo francese di François Hollande aveva firmato l'accordo, dopo che lo Stato francese sarebbe rimasto comunque al 33% nel capitale, dopo che era stato chiesto a Fincantieri di avere un altro socio ed era entrata la CR, la Cassa di Risparmio di Trieste, e il voltafaccia e il dietro front totale a fronte di un accordo politico, perché anche Fincantieri è partecipata da Fintecna e quindi dallo Stato italiano. Detto questo, vedremo le reazioni. Devo dire che ieri la posizione era stata molto ferma da parte del ministro Calenda e del ministro Padoan, cioè se salta l'aspetto principale dell'accordo, ossia la possibilità di avere il controllo, quando tu metti dei soldi il controllo è la prima cosa che vuoi, è inutile neanche parlarne, perché si era anche ridiscussa la possibilità che Fincantieri avesse il 50,1% e soprattutto l'ultima parola in consiglio di amministrazione in caso di stallo. Qualcuno mi scrive perché loro sono forti, hanno gli attributi, sì. Però gli attributi, se permettete, non sono solo un problema di forza, sono anche un problema di correttezza. E la posizione francese è stata, se l'avessimo fatta noi, una cosa del genere nei confronti di un operatore francese, avrei voluto vedere cosa sarebbe successo. Aggiungo che c'è una dichiarazione al limite del ridicolo, se non offensiva, di questo ministro dell'economia francese, che dice: i nostri amici italiani sono benvenuti per investire in Francia. L'ho detto appunto dopo aver confermato la nazionalizzazione dei cantieri. So che ci sono a conoscenza del fatto che dei tanti acquisti da parte dei gruppi francesi in Italia, e li ha citati, l'Europiana, Parmalat, c'è anche dossier Luxottica in corso di finalizzazione. È normale che i nostri amici italiani ritengano che sarebbe bene ci fosse un po' di reciprocità. Però il caso STX rappresenta in qualche modo un'eccezione, in quanto è un gruppo strategico. Lo scoprono adesso i francesi che è strategico, cioè era due terzi in mano ai sudcoreani, questa veramente è l'arrampicata sugli specchi, era per due terzi in mano ai sudcoreani, adesso improvvisamente scoprono che è strategica, quando era in mano ai sudcoreani non lo era evidentemente, e andavano meglio i sudcoreani di un paese, oltre che confinante, oltre che cugino, anche dentro l'Unione Europea. È l'unico cantiere navale della Francia, ha detto, però sull'eventuale ingresso di Fincantieri non c'è alcuna reticenza, c'è solo la volontà di poter dire a tutti i francesi che non perderanno il loro savoir-faire in materia di costruzione navale e che gli impieghi verranno tutelati. Devo dire che su questo anche Fincantieri aveva dato garanzie sui dipendenti dei cantieri francesi. Il savoir-faire non te lo devi dire, te lo devono riconoscere gli altri, lo dico con massimo rispetto al ministro Le Maire, perché al di là del francesismo, della parola francese, il problema è che quei cantieri erano già stati privatizzati dalla Francia, appunto andando al 66% ai sudcoreani, che li hanno messi in asta, e lì si è fatto avanti Fincantieri. In effetti nel passato c'era stato anche un derby tra Fincantieri e STX. Forse brucia ancora ai francesi il fatto che nel 2016 la nostra Fincantieri abbia soffiato la commessa del Qatar, che prevede proprio i francesi, che prevede la creazione di un'intera dal nulla di un'intera marina per l'emirato del deserto, per l'emirato del Qatar, l'emiro del Qatar. Una commessa importantissima, un assegno da 5 miliardi diviso tra Fincantieri e Leonardo, che darà lavoro e dà lavoro a 10.000 persone. Ogni cosa verrà prodotta in Liguria senza subappalti. Insomma, ne avevamo scritto anche su Sole 24 Ore. E quindi insomma, Fincantieri e Leonardo sono le uniche scelte dal Qatar. Non so quanto questo pesi, so che poi è il mercato che deve definire se puoi stare se sei competitivo, ma al di là di questo so che lo schiaffo ed è palese che lo schiaffo è totale. Di questo parleremo in apertura anche con un approfondimento di carattere europeo. Qualcuno mi scrive: volevano lo sciovinismo e il protezionismo con Trump, Macron è avanti. Sì, ha ragione, perché qua, sciovinismo tra l'altro è un termine che nasce proprio in Francia, Chauvin. Il nazionalismo esasperato, di cui i francesi sono dei campioni mondiali. Qualcuno mi continua a scrivere, alcuni ascoltatori, non abbiamo avuto gli attributi. Guardate che onestamente non è che si possa imporre e forzare un'acquisizione, cioè se il governo francese, che ha il 33%, decide di ricomprarsi tutto l'azionariato di STX, il problema è dei contribuenti francesi, perché da noi si sarebbero sprecate giustamente le polemiche, perché ti compri dei cantieri navali che hai già privatizzato e che quando li gestivi tu, insomma, bene non andavano, visto che li hai messi sul mercato. Evidentemente però lì prevarrà l'interesse nazionale, da noi sarebbero scoppiate le polemiche sul riacquisto. Questa è la... Io, qualcuno mi dice: ah, lei aveva orgasmi nel nominare Macron. No, guardi, quella cosa lì la tengo per altre attività, ma soprattutto, ripeto, un conto era ragionare su: è più pericoloso Macron, Hollande stesso, come si è comportato, la minaccia Le Pen. Poi qualunque politico viene giudicato sui fatti, e i fatti sono abbastanza chiari. C'è un grande agitarsi di Macron perché incalano i sondaggi. L'operazione sulla Libia può essere considerata sì uno sgarbo all'Italia, visto che a noi si chiede di pattugliare le coste e poi gli incontri li fai a Parigi, ma siamo all'interno, diciamo, anche di un posizionamento geopolitico. Quella di Fincantieri è semplicemente, posso dirlo tranquillamente, una porcata, non esiste, e vorrei capire, adesso cerchiamo di capirlo, perché l'Europa non abbia nulla da dire, ammesso che possa dirlo. Le Maire ha annunciato che andrà, e poi lo ascolteremo, andrà martedì prossimo per discutere con i ministri Padoan e Calenda. Vedremo. Anche perché la decisione di esercitare il diritto di prelazione, che scade il 29, che abbiamo appena adottato, è una decisione temporanea. Il tempo di negoziare nelle migliori condizioni possibili la partecipazione di Fincantieri e Cantieri Navali di San Nazaire, cioè non chiude completamente la porta. Di questo, dicevo, parleremo. E poi invece un tema apparentemente più leggero, ma non è leggero: una delle principali voci del nostro PIL si chiama, per fortuna, turismo, e devo dire che tutte le indicazioni che ci arrivano sono di un'estate, visto che ormai ci siamo, l'estate è già iniziata e c'è chi è già andato in vacanza, beati loro, ma di un'estate eccezionale, da record, soprattutto nelle località balneari e montane, buona anche nelle città d'arte, ma insomma l'effetto, inutile girarci attorno, il venir meno di altre destinazioni, in primo luogo quelle del Nord Africa e della parte medio orientale, ma non solo, anche il timore su altre destinazioni, ancora molti timori sulla Francia, fanno sì che non solo dagli italiani venga preferita ancora di più l'Italia, ma anche e soprattutto dagli stranieri. Questo all'interno di una difficoltà invece degli italiani a avere una, non tutti, ma insomma il 26% prevede di non andare in ferie contro il 25% dell'anno passato. Ma qui ci occupiamo soprattutto delle prospettive sull'industria che vale in Italia circa 70 miliardi di euro, il 4% del PIL. Se aggiungiamo l'indotto saliamo al 10% del PIL, a 173 miliardi, con quasi 3 milioni di lavoratori nel settore turistico. Dicevo, il 2016 è stato già un anno record con un miliardo e 200 milioni di arrivi internazionali a livello globale, e quindi c'è stata una grande ripresa del turismo a livello mondiale, e l'Europa resta in questo la destinazione più visitata. All'interno dell'Europa la Francia tiene il primo posto, l'Italia, i dati sono dell'anno scorso, la quinta posizione con 51 milioni di arrivi internazionali. E ne parleremo ampiamente con chi rappresenta il settore. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. I soldi spesi da Fincantieri che fine fanno? No, Fincantieri non ha ancora speso nulla, e ci mancherebbe pure questo, ma mi sembra che il punto sia un altro: voleva spendere e le viene in questo momento impedito. Dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, e poi come sempre la diretta video del programma sia sul sito della radio che su Facebook. E restiamo col tema con cui, di cui parleremo in apertura, e quindi la vicenda Fincantieri, perché ieri c'è stato un grosso calo in borsa del titolo. Oggi non va molto meglio, nel senso che non perde tanto quanto ieri, ma sta lasciando il 3% Fincantieri. Non è il peggior titolo, c'è Deutsche Bank che perde il 6,33%. Per quello che riguarda invece chi va particolarmente bene, Moncler più 4,70, Jux più 3,60, Azimut più 3,5, Banca Generali più 2,5, Banca Mediolanum più 2,30, Exor più 1,5, Biper più 1,20, come Fineco Bank e Mediaset. Il fronte opposto, Tenaris meno 1,40, CNH meno 0,70, Banco BPM meno 0,50, come Saipem e Brembo. Qualcuno già mi scrive sul turismo: come è possibile che siamo solo al quinto posto in Europa? E lo so, siamo al primo posto al mondo come siti dell'UNESCO, perché non sappiamo sfruttare, ma ne parliamo dopo, non sappiamo sfruttare appieno quello che abbiamo come risorse. Siamo al quinto posto e abbiamo perso posizioni in questi anni anche a livello mondiale. E segnalo che c'è un fortissimo incremento del turismo d'affari, ma non solo, in Cina. Sì, guardate che non c'è solo il caso francese col meno 4% l'anno scorso, c'è anche il caso Turchia, che è brutto dirlo, insomma, lo diciamo e basta, avvantaggia anch'essa e non poco l'Italia, oltre che la Grecia. Meno 30% i flussi turistici in Turchia dopo il tentativo di colpo di Stato e la reazione assolutamente dispotica di Erdogan, e quindi insomma molti considerano la Turchia un paese non sicuro. Sì, sono d'accordo con chi mi scrive: per favore dica che è una straordinaria occasione per il futuro, dobbiamo trattare bene questi turisti. Certo, nel momento in cui per motivi di esteri, di terrorismo soprattutto, di tensioni, intercettiamo flussi che magari si sarebbero diretti in Egitto piuttosto che in Turchia e tornano in Italia o vengono in Italia per la prima volta, l'ultima cosa che possiamo fare è trattarli come selvaggina da passo, e su questo però qualche dubbio mi resta. Andiamo avanti, dicevo, con le altre notizie prima di arrivare ai temi di approfondimento. Allora, dagli Stati Uniti sostanzialmente arriva una notizia che molti hanno ripreso, Amazon, volando in borsa, consente a Jeff Bezos di sorpassare Bill Gates come l'uomo più ricco del mondo. Questo nel giorno in cui, tra l'altro, Wall Street ha aperto, non ho dato gli indici internazionali, guadagnano 0,20%, mentre Parigi perde lo 0,16%, Francoforte lo 0,90%, Milano guadagna lo 0,20%, Londra meno 0,10%, ma il Dow Jones ha aperto su nuovi record e tutti i listini hanno aggiornato i record storici. Il Dow Jones a 21.758 punti in apertura, il Nasdaq a 6.458, l'S&P a 2.482, ma al di là dei punti, tutti e tre gli indici americani sono a record storico. Tra l'altro, visto che parlavamo di Amazon e Bill Gates, c'è un'altra notizia. Facebook è entrata nel ristrettissimo club delle aziende che valgono più di 500 miliardi di dollari. I titoli sono cresciuti infatti del 5,7%, una trimestrale sopra le attese per il gruppo di Zuckerberg, e appunto capitalizza oltre 500 miliardi di dollari. In questo gruppo, oltre a Facebook, ci sono Amazon, che vi è entrata nelle ultime ore, Apple, 800 miliardi di dollari, e Alphabet, 660 miliardi di dollari, e poi Microsoft con 570. E Alphabet chiaramente è Google. Sono tutte aziende, a chi mi dice i giganti, erano tutte aziende che o gruppi che o non esistevano o erano molto piccoli, forse eccezione fatta per Microsoft e Apple 20 anni fa, a dimostrazione che non è vero che stanno vincendo solo i grandi, questi sono piccoli diventati grandi nel corso di questi anni. Si diceva di Facebook, degli utili crescono del 71%, al di là e contrariamente a chi prevedeva un problema per Facebook ormai utilizzato da persone di mezza età e non più dai giovani, più 71%, è cresciuta soprattutto la pubblicità, ha messo a segno profitti nel secondo trimestre, mi ha messo a segno profitti per quasi 4 miliardi di dollari, 3 miliardi 900 milioni, appunto più 71%. Ha deluso invece un po' Twitter nella trimestrale, una perdita netta di 116 milioni di dollari, in aumento rispetto al trimestre precedente, fatturato è a 570 milioni. Gli analisti sono rimasti delusi soprattutto sul numero di utenti attivi, un dato invariato, 328 milioni, come se si fosse arrestato, diciamo, il numero di chi twitta come utente attivo. Gli utenti giornalieri hanno fatto più 12% però rispetto all'anno prima, e comunque il numero è invariato sul trimestre precedente, ma rispetto a un anno prima è comunque in crescita del 5%. Continuiamo con le trimestrali, ce ne sono tantissime oggi. Samsung, utili record, si avvia a sorpassare Apple grazie all'andamento del Galaxy S8, rialzo anno dell'85%. Quello di Samsung è un vero caso di storia, perché se ricordate cosa capitò con l'uscita del telefonino Samsung, la crisi che l'azienda ne ebbe, il cosiddetto turnaround che è riuscita a fare, cioè riposizionarsi, rimettersi in discussione e rilanciarsi. Ebbene, i dati sono incontrovertibili su quello. Dovrebbe battere appunto per la prima volta Apple sui profitti, si stimano in 9,7 miliardi di dollari contro gli 8,2 stimati dagli analisti per Apple. Huawei più 36% nel primo semestre, spedizioni di smartphone più 21% a quota 73 milioni, ricavi in crescita a quota 15,58 miliardi di dollari per Huawei. Ultime due, Deutsche Bank invece, andiamo su un settore più tradizionale come quello bancario, utile netto nel secondo trimestre a 466 milioni di euro contro i 20 milioni dell'anno prima, e i ricavi sono scesi del 10%. Etihad invece segnala conti in rosso nel 2016, questo è il bilancio sul 2016, non è la trimestrale, una perdita di 1,87 miliardi, 1 miliardo e 870 milioni di dollari contro un utile di 103 milioni dell'anno precedente. La perdita è dovuta soprattutto alla svalutazione di asset di partecipazioni, $1 miliardo svalutati nelle partecipazioni, negli asset sugli aeromobili, mentre e poi c'è una componente importante anche delle perdite che Etihad ha registrato su Alitalia e su Air Berlin. Ancora due notizie che riguardano l'Italia. Il presidente dell'INPS Tito Boeri, in audizione alla Camera, ha detto: il nostro sistema ha tutelato, il nostro sistema di protezione sociale ha contenuto i rischi di povertà, lo ha fatto sì, ma soprattutto per gli ultra 65 anni, ma solo per loro. Il nostro sistema di protezione sociale ha contenuto per gli ultra 65 anni, ma solo per loro, il rischio di povertà anche nelle fasi più acute della crisi. La nostra spesa sociale è sempre più squilibrata a sfavore delle giovani generazioni. Se guardiamo all'insieme delle prestazioni, solo il 4% va a chi ha meno di 40 anni. Anche se consideriamo la sola spesa non pensionistica, tra l'altro all'interno della spesa pensionistica, come ben noto, ci sono diverse componenti di natura assistenziale, gli ultra 65 anni assorbono quasi un terzo in più di risorse di chi ha meno di 40 anni, il 35% contro il 26% destinato a chi ha meno di 40 anni. Se poi guardiamo alle grandezze pro capite, abbiamo che agli ultra 65 anni vanno mediamente circa 1.200 euro a testa, mentre agli under 39 vanno meno di 500 euro, quindi meno della metà. E Boeri ha aggiunto: i giovani non hanno paracadute, sono così costretti a restare in famiglia, ciò riduce la mobilità e quindi la possibilità di cogliere l'opportunità. Poi ha detto sul reddito di inserimento: è un passo in avanti rispetto alle tante misure parziali introdotte, ma ci sono poche risorse. L'ultima notizia riguarda le banche venete. Mentre si è chiusa l'indagine per quello che riguarda Vicenza, oggi il Senato ha dato via libera al decreto con 148 sì e 91 no. Diventa così legge il decreto di salvataggio delle banche venete, su cui torneremo anche ad occuparci. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Giustamente qualcuno mi fa notare: guardate che la presenza dei francesi è anche nel crocevia della finanza italiana, Mediobanca, Bolloré e quindi Generali. E poi aggiungo io, c'è Bolloré che ha la quota di maggioranza relativa in Telecom Italia, e come sappiamo lavora molto anche su un'ipotesi, diciamo, di creare un gruppo multimediale con contenuti anche televisivi. C'è Bolloré che ha fatto un'operazione, anche lì, per carità, finanza su finanza, però non esattamente corretta, con Mediaset, quando prima ha rotto l'accordo su Premium, poi è andato a comprare i titoli e poi è arrivato appena sotto la soglia dell'OPA. Lì l'autorità è intervenuta dicendo: o scegli o Telecom o Mediaset, non puoi avere una posizione dominante. Aggiungo io, è vero che lì erano gruppi privati su gruppi privati, mentre qui abbiamo uno Stato francese col 33% e Fintecna che controlla Fincantieri. Ma ciò non toglie che, quando sento Le Maire dire, immagino che i nostri amici italiani chiedono, è normale che i nostri amici italiani ritengano che sarebbe bene che ci fosse un po' di reciprocità. Mi sento anche un po' preso, Arriva un ascoltatore che mi scrive: ora difendi Berlusconi? No, sto solo ricordando, no, sì, non importa, cioè sto solo ricordando il fatto che l'operazione di Bolloré è vero che è privato su privato, però insomma ed è vero che anche su Telecom è privato su privato, lì le autocritiche, se abbiamo fatto bene a privatizzarla in quel modo, con il nocciolino, andiamo indietro di troppo tempo, andremo indietro ai capitani coraggiosi di D'Alema quantomeno, però sto solo dicendo che se dovessimo impuntarci anche noi avremmo materiale, dossier per dire: vabbè, non esiste solo la francesità, esiste anche l'italianità. Chiedo, intanto ringrazio per averci aggiunto in collegamento Celestina Dominelli di nuovo del Sole 24 Ore, che sta seguendo la vicenda ormai da quando è esplosa. Celestina, buonasera. Celestina, buonasera. Buonasera ai radioascoltatori. E grazie anche a Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. Buonasera, Adriana. Buonasera. Posso sentire questo Le Maire velocissimo che annuncia che martedì andrà a Roma da Padova nel Calenda? Il ruolo dell'État, il est aussi en France de protéger nos intérêts stratégiques. Il ruolo dello Stato anche in Francia è di proteggere i nostri interessi strategici. Proteggere e difendere il know-how, l'occupazione di un sito industriale così importante per la Francia come i cantieri navali di Saint-Nazaire. Fincantieri è un gruppo italiano che è specializzato nella costruzione navale e che ha una tradizione industriale di qualità. Io ho indicato che l'offerta che abbiamo fatto mi sembra essere equa, giusta, e continueremo a lavorare proprio su questa base. E non su un'altra offerta, non su un'altra opzione. Non c'è alcun sospetto riguardo ai nostri amici italiani. Anzi, c'è la volontà da parte nostra di difendere e portare avanti un buon progetto industriale europeo nel campo della costruzione navale con l'Italia, con Fincantieri. Semplicemente c'è una posta in gioco che è importante, che riguarda non solo il lavoro, ma anche l'occupazione. Oggi a Saint-Nazaire ci sono prospettive di lavoro per 11 anni. Le prospettive di lavoro devono essere sostenute. Oltre ai fondi a disposizione, ci sono anche altri elementi da considerare. Se domani la congiuntura dovesse essere meno favorevole, quali garanzie abbiamo per il lavoro a Saint-Nazaire? Penso che dobbiamo rafforzare queste garanzie. C'è un know-how davvero eccezionale, di altissimo livello, unico in Francia. Insisto ancora una volta, rivolgendomi agli amici italiani, che è l'unico cantiere di questo tipo in Francia. Vogliamo avere tutte le garanzie, ripeto tutte, che questo know-how non vada un giorno in un'altra grande potenza economica mondiale, non europea, per essere precisi. Spero di riprendere la discussione serenamente da martedì prossimo a Roma e ho fiducia che possiamo trovare le modalità per un accordo industriale europeo con l'Italia nel campo della costruzione navale. Le modalità di questo accordo industriale europeo con l'Italia dans le domaine de la construction là-bas. Allora, a me fa impazzire Le Maire quando dice bisogna essere sicuri che il gruppo non vada in mani potenze straniere. Oh, e i due terzi ce l'avevano i sudcoreani, e la domanda non te la sei posta prima, però adesso arrivo. Celestina Dominelli, c'è qualche possibilità che si riapra con le parole che ha usato Le Maire il dossier, oppure no? Perché loro dicono intanto la rinazionalizziamo in maniera transitoria. Ma allora, è ancora molto presto per dare una risposta, anche perché siamo in attesa di capire se ci sarà innanzitutto una replica del governo italiano. Insomma, qualcuno dice che dovrebbe arrivare, insomma, una nota del ministro dell'economia, insomma, a stretto giro, in risposta appunto alle dichiarazioni di Le Maire, che comunque ha rinviato, diciamo, la prossima tappa alla riunione di martedì. Beh, è evidente che loro vogliono continuare a trattare, e il fatto che non abbiano chiuso la porta a Fincantieri sta a dimostrare che in realtà non esiste un piano B al di là della nazionalizzazione temporanea, che per loro diventa appunto una misura, come peraltro ha spiegato benissimo il ministro, per guadagnare tempo e ottenere condizioni, diciamo, più favorevoli rispetto a quelle che a loro dire, insomma, avevano ottenuto, insomma, i loro predecessori sotto la presidenza Hollande. Vedremo nelle prossime ore cosa succede. Per ora non ci sono reazioni né da parte del governo italiano né tantomeno da parte del gruppo triestino, che certo insomma, è rimasto sicuramente spiazzato da questo cambio di rotta. Ieri Giuseppe Bono, nella conference call con gli analisti sui risultati semestrali, ha detto la pazienza è finita, insomma, quindi evidentemente i margini sono molto stretti, però insomma non è assolutamente chiusa la partita. Allora, Adriana Ceretelli, tu hai scritto una cosa molto importante oggi sul Sole 24 Ore. Se Macron non rilancia ma divide l'Europa, e vorrei avere una tua sintesi dopo. Adesso, prima del metodo, invece, l'Europa può intervenire oppure no su questa vicenda? Perché molti me lo chiedono, alcuni mi chiedono se ci sono le penali. L'accordo era tra Hollande e Presidente del Consiglio italiano, quindi non era un accordo ancora con le penali, come ha chiarito bene ieri Celestina Dominelli. Ma l'Europa concretamente cosa potrebbe fare? No, l'Europa in questo caso non può intervenire in modo diretto sul via libera o meno alla all'accordo, è un accordo tra imprese, e quindi quello che si può dire è che dentro al mercato unico è abbastanza insensata questa presunzione in difesa di interessi strategici, quando appunto ci fosse di mezzo un paese terzo si potrebbe anche capire, nel senso di timori di esportazione o addirittura di rapina di tecnologie, di distruzione di posti di lavoro. Siamo in un'Europa dove si parla di cooperazione industriale rafforzata soprattutto nei settori della difesa, nei settori strategici, quindi non si possono fare questo tipo di ragionamenti. Ma detto questo, non sono previste sanzioni, esatto, per questo tipo di comportamenti sbagliati. Allora, dopo il meteo e la pubblicità, invece andiamo, cerchiamo di capire alcuni, la delusione Macron. Ma, guardate, Macron fa il premier, il presidente francese, quindi si occupa della Francia. Se poi uno immagina, e anche noi lo si è immaginato, i ragionamenti erano questi, che l'anti-Le Pen avrebbe rilanciato un'Europa, nell'interesse chiaramente anche della Francia, più attenta alla crescita, al lavoro, meno attenta solo al deficit e ai calcoli ragionieristici. E quindi insistendo per una modifica anche della Germania, beh, qui la delusione mi sembra totale. Là se è totalmente Parigi, Berlino, a me non ne frega nulla delle polemiche su Macron, vedo molti ascoltatori, la piramide, l'inno alla gioia, l'accusa di massoneria, di essere stato creato in maniera plastica, diciamo ad hoc, dai poteri forti francesi, l'elite francese. Chi se ne frega? Prima di capire come si comporta Macron, e si sta comportando in maniera totalmente, diciamo, deludendo totalmente chi pensava che la Francia sarebbe tornata a essere protagonista di un'Europa più unita, di un'Europa diversa. Però il commento lo faccio fare dopo Adriana Ceretelli, dopo il meteo. Però 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Dunque, Adriana Ceretelli, c'eravamo illusi che Macron potesse rilanciare l'Europa, invece la divide, come scrivi tu oggi in un editoriale su Sole 24 Ore? Beh, certamente Macron aveva creato in molti l'illusione di essere un europeista, diciamo, con delle idee moderne per modernizzare la Francia e l'Europa, per integrare maggiormente l'Europa. Le mosse che sta facendo mi sembra che dimostrino esattamente il contrario nei fatti, nel senso che dall'immigrazione alla vicenda Fincantieri, ma anche al fatto che per esempio si sta discutendo se continuare o meno il progetto della Torino-Lione, ci sono diversi segnali che indicano che, diciamo, il suo sentimento europeista è un po' sui generis, è più che altro un po' quello che diceva Mitterrand: l'Europe c'est la France, la France c'est l'Europe, cioè in sostanza è l'Europa che fa la Francia, no? Scusa, il contrario, è la Francia che fa l'Europa. Sì, tu ricordi nel senso che sì, alla fine o risponde agli interessi nazionali della Francia e della Germania e della Francia, oppure non è Europa, insomma, si fa con l'Europa quel che si vuole. Sembra che sia questo il senso. Tu dici che il macronismo mostra una faccia vecchia, quella della Francia, sì, di sempre, con i suoi istinti dirigisti, statalisti, protezionisti, sovranisti, europeisti a giorni alterni, solo quando fanno comodo le sue euroalchimie di potere. Un giudizio molto duro, appunto, che tu hai oggi sul Sole 24 Ore. Celestina Dominelli, qualcun altro mi dice: ma a questo punto non converrebbe per Fincantieri mollare Coop per eventualmente entrare in una gara al ribasso? Qualcun altro invece mi dice: no, dovremmo adesso farci sentire su Telecom, su Mediaset. Attenzione, sono gruppi privati, però non si può entrare. Sì, poi esistono formule un pochino più sottili, un pochino più da moral suasion, un pochino più di Però, voglio dire, i dipendenti di Telecom sono italiani, adesso non è che dobbiamo iniziare a fare la guerra a Telecom, stiamo scherzando, così come Mediaset, Vivendi ha una quota del 29%, è difficile quando parli di privato su privato, qui di mezzo c'era un gruppo a partecipazione statale con un gruppo a partecipazione statale. Celestina? Ma io direi che appunto Fincantieri sicuramente non ha, al di là appunto della, come dire, il dispettimento legato al volta, insomma, al cambio di rotta della Francia, non ha alcun interesse a non cercare di chiudere questa operazione, perché come Bono ha spesso ripetuto in queste settimane, l'operazione non solo porta un valore aggiunto legato al fatto che quei cantieri, come hai ricordato spesso tu, insomma, nel corso delle tue trasmissioni, hanno delle capacità importantissime dal punto di vista della costruzione delle navi da crociera, sono in grado di costruire le navi più grandi, hanno un'expertise sul militare fortissima, quindi questa acquisizione darebbe a Fincantieri un valore aggiunto e una capacità di competere in maniera ancora più robusta sul mercato europeo. Non dimentichiamo poi che c'è un altro aspetto di cui si è parlato in questi giorni, cioè questo deal potrebbe di fatto spianare la strada anche a un'integrazione nel campo del militare, che come giustamente ricordava prima anche Adriana Cerretelli, è, come dire, è molto importante alla luce di quelli che sono i piani europei di creazione di una difesa unica. Quindi io credo che Fincantieri abbia tutto l'interesse ad esperire, diciamo, fino alla fine le possibilità per arrivare a una conclusione senza... come dire, senza ovviamente cedere troppo terreno, ma insomma cercando di capire se esistono davvero i margini per rilevare questi cantieri. Ancora, sì, qualcuno mi dice c'è un unico progetto tra Macron in Libia e Macron con l'affare Fincantieri. Adriana, l'ultima domanda che ho per te, circola un po', è inutile girarci attorno, l'idea che non siano casi singoli, che qui ci sia l'idea ieri Fitoussi ha detto a questi microfoni, ma l'Italia è piena di aziende molto belle, sottovalutate, che ci sia un progetto, tra virgolette, di spoliazione, addirittura c'è chi arriva a ipotizzare una Germania che ci tiene sotto il tacco con mantenendo le clausole di salvaguardia, cioè insistendo perché l'Europa sia molto stringente sul deficit e quant'altro, è una Francia che... La mano destra tedesca ci tiene sotto, la mano sinistra, tra virgolette, va di saccheggio. A me sembra un po' troppo, però insomma, vorrei sentire la tua opinione. No, io direi che questo è un po' troppo, nel senso che non penso che l'Europa sia per definizione sinonimo di prevaricazione e rapine. Però sono anche convinta di una cosa, che molto di quello che ci succede è colpa nostra, è colpa del fatto che non facciamo le riforme a tempo debito, non ristrutturiamo a tempo debito, non modernizziamo la giustizia, la pubblica amministrazione, la politica della concorrenza come dovremmo. Intendiamoci, la Francia ha delle lacune e a volte anche delle lacune peggiori delle nostre, ma sul sistema paese questa è la differenza. Vabbè, come quello. Gli altri grandi paesi europei hanno un sistema coerente, un sistema anche di potere e di potenza, noi questo non ce l'abbiamo. E in questo senso dissento un po' dalla collega che diceva in fondo Fincantieri ci tiene a per ragioni di business e di strategia, e su questo concordo, ma mi sembra che la presa di posizione di Macron non preluda, nella migliore delle ipotesi, a una cooperazione come avrebbe potuto essere quella dell'accordo dell'aprile scorso. Perché nel momento in cui pone il problema della nazionalizzazione sul tavolo, secondo me pone il problema della gerarchia nel management della sua azienda. Quindi quando dice 50-50, ammesso che sia vero il 50-50, bisogna vedere chi comanda nel 50-50. Sì, però, e la mia impressione sì. È che tutto questo gioco punti esattamente a riprendere il controllo con, certo, la partnership di Fincantieri, sì, però... il contributo di Fincantieri. Sì, ma adesso non è, Adriana, che possiamo pure portargli l'acqua col secchio e limone, nel senso che no, vogliono i soldi e poi noi mettiamo, certo, i soldi e loro controllano l'azienda. Allora facciamo così anche in Telecom, facciamo così anche in Mediobanc, facciamo così anche in Mediaset, in Parmalat, nelle banche. Non è così, chi mette i soldi ha il controllo in un mercato, cioè, ho capito cosa dici tu, che loro non stanno chiudendo completamente la porta, però il voltafaccia è stato totale. Qualcuno mi scrive, ma è buffo che l'Europa esista solo per romperti le scatole sul diametro delle vongole, ma non possa dire nulla se un impegno preso tra due governi viene disatteso. Lo so, è molto semplicistica come battuta, ma è anche molto efficace. Nel ringraziare, vorrei dedicare, diciamo, a Macron il prossimo stacco musicale, e poi ringrazio anche le due colleghe. Cioè, ce lo autodedichiamo io, Adriano Ceretelli, tutti quelli che hanno creduto che Macron fosse un vero europeista e non un prodotto delle élite sciovinista francesi. Grazie Adriano Ceretelli, grazie Celestina Dominelli. Andiamo sul traffico con gli Imagination, pensa un po'. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Focus Economia. Teniamoci l'illusion come monito, poi magari ci verremo smentiti, magari Macron si dimostrerà assolutamente europeista. Va bene così, andiamo sulla borsa, va bene così per nulla, però insomma andiamo sulla borsa. Più 0,26% Milano, meno invariata Parigi, diciamo, Francoforte meno 0,70%, Londra meno 0,12%, Dow Jones che continua a aggiornare nuovi record su tutti gli indici, più 0,30% adesso il Dow Jones, più 0,20% lo Standard & Poor's, a record anche in apertura il Nasdaq. Tra i titoli Moncler, anzi partiamo subito da Fincantieri che ha ricevuto anche oggi una botta in borsa, non vedo più il titolo, però perdeva circa il 3%, adesso lo recupero. Il peggiore Deutsche Bank meno 6,30%, anzi mi faccio dare Fincantieri dai colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Sì, Fincantieri è andata male nel pomeriggio, poi ha cercato un attimo di migliorare dopo che è stato detto che comunque ci saranno ancora trattative nella ricerca di un accordo. Alla fine ha chiuso in calo del 2,6%. Ancora, per quello che riguarda invece tutti i settori, Moncler molto bene, più 5%, Yoox Net-a-Porter più 3,20%. Ma cos'è? Ancora un effetto ritardato di Jimmy Choo o in realtà è la semestrale di Moncler? Ma no, siamo entrati nel pieno delle semestrali. Ieri appunto Moncler, la società del piumino, a borsa chiusa ha dato i conti. I ricavi ancora una volta sono saliti molto, del 18% a 407 milioni di euro. In più l'utile è salito ancora di più, del 25%. E come se non bastasse, la società ha indicato che a fine giugno la cassa, la liquidità del gruppo è aumentata dai 105 milioni di fine 2016 a 130 milioni. Insomma, tutti i conti in crescita. Peraltro in mesi che non sono molto importanti per l'azienda, il grosso del fatturato infatti viene registrato ovviamente con la stagione autunno-inverno, quindi da settembre in poi. Allora, è questo per quello che riguarda Moncler, ma anche altri titoli, appunto Yoox Net-a-Porter. Bene oggi, Milano è una delle migliori, il mondo bancario assicurativo e anche risparmio gestito, diciamo Banca Generali più 2,70, Banca Mediolanum più 2,60, Finecobank più 1,60, Biper più 1,50, UBI più 1%, Mediobanca più 0,70. Sì, per quanto riguarda le banche, diciamo che si entra nel vivo delle trimestrali la prossima settimana, infatti diciamo hanno registrato anche un Banco BPM ad esempio andata giù, o comunque sono stati un po' titoli più nervosi nell'attesa di come saranno i conti trimestrali la prossima settimana. Invece si è distinto il risparmio gestito perché oggi sono stati pubblicati i conti. Azimut ad esempio è stata una delle migliori, più 3% come hai indicato tu, del resto ha vantato il miglior utile semestrale della sua storia per 121,2 milioni di euro. in aumento dell'87%. I conti ovviamente sono piaciuti al mercato. D'altra parte è andata bene anche Banca Mediolanum, che infatti è salita del 2,56%. L'istituto fondato da Ennio Doris ha chiuso il semestre con un utile netto di 196 milioni, anche in questo caso un aumento del 15%. Peraltro è stato indicato anche grazie all'effetto PIR, che ovviamente aiuta e agevola la raccolta. Poi bene anche Banca Generali con un profitto di 108 milioni in aumento del 61%, in borsa i titoli hanno guadagnato il 2,77%. Altri titoli a partire da Leonardo, che ha diffuso la trimestrale, quindi il semestre, dopo il GR24, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Il segnale orario vi è offerto da... Sei in ritardo! Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Focus Economia. Minuti, mentre eravamo in pausa, GR, è arrivata l'agenzia che il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha ricevuto nel pomeriggio una telefonata del Presidente francese Emmanuel Macron. Al centro del cordiale colloquio i temi migratori, la Libia e la questione Fincantieri, Estex Saint-Nazaire. Allora, alcuni mi propongono al 349-238-6666 ritorsioni. Ma non è prendere ritorsioni, oddio, la politica si fa anche esercitando il potere, mettendo i bastoni tra le ruote delle volte, se questo deve essere l'atteggiamento, cioè si dialoga, non è che si dice solo ah, siamo arrabbiati, e si possono fare delle operazioni diverse. Altri mi fanno notare, guardi che anche Pioneer è stata venduta dal Mundi, ma sono sempre operazioni privato su privato, formalmente non puoi dire nulla, ci mancherebbe, non è che... In Europa il passaporto non conta, lì la Francia ha messo di mezzo interessi nazionali su un gruppo di cui lo Stato aveva già altro 3%. Dopodiché, insomma, l'operazione stessa è stata una... mettiamola così, forse ha svelato la vera faccia di Macron. Vorrei invece occuparmi, adesso concludere la parte che riguarda la borsa, con l'onore Micheli. Volevo commentare solo il titolo Leonardo, che oggi nella semestrale ha visto un utile calare a 194 milioni, sale la redditività, e oggi c'è il CDA, il Consiglio di Amministrazione, anche su Telecom. Eleonora, Leonardo e Telecom. Sì, per quanto riguarda Leonardo, diciamo ha registrato un andamento volatile, comunque alla fine è riuscito a chiudere in progresso dello 0,33%. L'utile, come hai detto tu, è sì calato, d'altra parte nello stesso periodo dell'anno scorso, quando era stato di 210 milioni, beneficiava anche della plusvalenza legata alla cessione di Fata di circa 10 milioni di euro. Per quanto riguarda Telecom, ovviamente occhi puntati, è in corso il consiglio di amministrazione, i titoli hanno chiuso a 0,86 euro, praticamente invariati sul livello di ieri. Il consiglio di amministrazione è chiamato innanzitutto ad approvare i conti del semestre, che sicuramente, almeno a detta degli analisti, saranno buoni, e sarà l'ultima semestrale inoltre targata Flavio Cattaneo, visto già che nei trimestri precedenti il manager ha fatto molto bene, ha dato una sforbiciata ai costi e quindi anche i margini sono nettamente migliorati. Poi è da vedere, cioè sicuramente i consiglieri discuteranno quest'oggi nel corso del meeting quale sarà il successore, da vedere tuttavia se poi verrà annunciato e quindi deciso oggi dal CDA la figura che sostituirà o le figure che sostituiranno l'amministratore delegato Cattaneo, o se si rinvierà la prossima settimana, anche alla luce del fatto che fondamentalmente Cattaneo rimarrà amministratore delegato fino a domani, e infatti domani stesso terrà la conference call con gli analisti per spiegare la semestrale. Inoltre rimarrà in carica come direttore generale fino alla fine del mese, si tratta comunque di pochi giorni. Migliori e peggiori in assoluto: Net Insurance più 21%, Poligrafici Printing più 13%, Assiteca più 7,70%, Deutsche Bank meno 6,30% sul fronte opposto, Dominion Holding meno 6%, MailUp meno 4%. Grazie anche l'onore Michele, Radio Corriere sulle 24 ore. E adesso noi passiamo, qualcuno mi chiede se avremo domani l'uccellaccio su Macron e la Francia e l'Europa, sì. è l'ultima puntata, no, l'ultima puntata della settimana. Poi il programma resta tutta l'estate. Adesso però vorrei parlare di una cosa positiva, stando alle proiezioni, ossia la spesa, non tanto la spesa media degli italiani in turismo, perché sale a 803 euro più 16%, ma ci sono anche un 26% di italiani che prevede di non andare in ferie. Invece la cosa interessante è quello che l'Italia sta cercando di intercettare sui flussi turistici che non si dirigono più nelle mete classiche, anche a buon prezzo, Egitto, Turchia e quant'altro, Tunisia, è brutto dirlo ma è l'effetto terrorismo, e riscoprono o scoprono in alcuni casi l'Italia per la prima volta. Insomma, al di là della spesa media degli italiani e purtroppo del numero di italiani che non andranno in vacanza, uno su quattro praticamente, la motivazione economica vale per il 60% di quelli che non andranno in vacanza, poi c'è un 10% che dice che andrà in vacanza in altri periodi. Aumenta un po' la spesa media degli italiani per le vacanze estive a 803 euro a persona più 16%. Dovremmo avere un altro anno, o meglio un anno record, questa volta non solo sui musei. I visitatori sono cresciuti nei musei nei primi semestri del 2017, il dato sui visitatori di musei, monumenti, aree archeologiche è in crescita del 7%, gli introiti del 17%, ma anche e soprattutto sulle località balneari e montane. Chiedo conferma degli indicatori, dei segnali che hanno da un lato a Renzo Iorio, che è presidente di Federturismo Confindustria. Buonasera. Buonasera. Grazie anche a Luca Patanè, che è presidente, io cito solo le vostre cariche, diciamo, associative, ci mancherebbe, presidente di Confturismo. Buonasera anche a lei, Patanè. Buonasera. E poi, Patanè, dove l'hanno messa? Nel tunnel del Gran Sasso? Se sento malissimo. No. Ecco, adesso la sento meglio. Il microfono nascosto. Sono i francesi che la boicottano. Grazie anche a Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora, rapidissimi, nel primo giro, poi ho qualche domanda più critica, ce l'ho. Iorio, Patanè e Bocca, mi date conferma che quest'anno i dati che avete in mano segnalano un aumento non solo delle località, delle città d'arte, ma anche di mare e montagna, e se sì, con che però distribuzione? Iorio. Ma sì, direi senz'altro di sì, soprattutto quelle del mare, ma anche la montagna sta andando molto bene, soprattutto come diceva, i segnali incoraggianti sono della clientela internazionale che sta crescendo, e anche delle nazionalità, essenzialmente per esempio statunitensi e cinesi, che erano sostanzialmente assenti dalle nostre destinazioni marittime, che invece in particolare in Sardegna stanno arrivando di più. Sono crescite ampiamente a doppie cifre, l'osservatorio delle compagnie alberghiere ha segnato un più 15 solo sul mese di giugno. Quello che diciamo bisogna continuare a segnalare è però che la crescita per esempio della Spagna è più rilevante della nostra. Di quanto? Ma allora, se parliamo solamente di dati alberghieri, che sono quelli diciamo che sono rilevabili, noi abbiamo un cumulo di circa 8-9% a fine giugno rispetto al fine giugno dell'anno precedente, la Spagna stessa data più 14,9%. Entrambi i dati devono essere diciamo visti come una sottostima, perché è evidente tutto il mercato delle locazioni brevi a scopo di vacanze, come dire, sta assorbendo un sacco di clientele, quindi evidentemente i numeri sono estremamente importanti. Ma locazioni brevi a scopo di vacanze significa Airbnb? Significa sostanzialmente adesso Airbnb. Adesso poi ne parlo con Bernabò Bocca, che ogni volta che gli nomini gli Airbnb ha un attacco. Comunque adesso arrivo anche su questo, però vorrei sentire se Luca Patanè, complessivamente, perché Confturismo ha dentro anche il settore alberghiero, ma tutti gli operatori turistici, se complessivamente si ritrova nella descrizione di Iorio. Sì, magari aggiungo alcuni dati sugli italiani che vanno in vacanza in Italia, no? Che è anche importante. Condivido che c'è una crescita degli stranieri di più nazionalità e nazionalità diverse verso il nostro paese, disegnato da uno scenario politico che ci sta favorendo in questa maniera, e E io però vedo anche una crescita degli italiani nelle vacanze. Lo sto vedendo rispetto all'anno scorso, lo sto vedendo proprio da osservatore. E non soltanto sull'Italia, ma anche sulla Grecia e sulla Spagna, in maniera un pochino più consistente rispetto all'anno scorso. Questo è importante, lo stiamo vedendo da un campione importante di circa carotaggio sul 20% del mercato delle agenzie, e questo ci dà un po' l'esito sia degli italiani che vanno all'estero, in Grecia e in Spagna, e sia dall'incremento degli italiani che stanno andando in Italia, quindi fruendo una vacanza. Mi scusi Patanai, ma non è che aumentano gli italiani che restano in Italia, oltre che per problemi economici, anche perché i timori terroristici riguardano anche loro, cioè uno non va più in Egitto, non va più in Turchia, non va più in Tunisia. Questo è il film degli ultimi 3 anni, quindi... è lo stesso film. Il film non sta cambiando, anzi, magari in Turchia si è allargato il fatto della gente che non ci va, però detto questo, anche l'Egitto stesso ha una crescita rispetto all'anno scorso. Secondo me l'anno scorso sull'Egitto è stato l'anno zero, quest'anno c'è una crescita sull'anno scorso, se la paragono 5 anni fa, l'Egitto vale il 15%, quindi queste sono le cifre che contano. Oh, Ben Babocca, lei si ritrova in questi dati come Federalberghi, e è ancora calda la polemica con gli Airbnb che dicono in alcuni casi che non riescono a calcolare il 21% di quanto incassano. Allora, sugli Airbnb abbiamo detto chiaramente, va tutto bene, basta che anche tu paghi le tasse. Inutile girarci attorno. Media prima la conferma sulle prenotazioni alberghiere, di cui lei ha il polso diretto, e poi anche sul rapporto con gli Airbnb, opportunità o danno per il settore. Dunque, concordo pienamente con chi mi ha preceduto per quanto riguarda il tema dell'andamento del turismo. Anche noi rileviamo una crescita di presenza italiana in Italia, anche nelle aree che negli anni precedenti arrivavano un pochettino per ultime, quindi non solo nelle località più gettonate, ma in tutte le aree del paese, soprattutto mare e montagna. Non sempre le presenze, più presenze significano più fatturato, perché ovviamente questo è un turismo che era abituato ad andare in località a basso costo, quindi località come possiamo dire l'Egitto, come possiamo dire la Turchia o la Tunisia, e quindi ovviamente cercano strutture di un livello di costo similare all'anno precedente. Comunque questo ci fa dire che il 2017, turisticamente parlando, sarà un anno buono. Non illudiamoci, perché come diceva lei giustamente prima, è un anno buono anche e soprattutto per le disgrazie dei paesi nostri concorrenti. Per quanto riguarda il discorso di Airbnb, non riesco a capire come in un paese si possa pensare di non rispettare una legge dello Stato che impone a Airbnb di fungere da sostituto d'imposta, e non riesco neanche a capire la loro difficoltà a trattenere questo 21% quando loro non hanno nessuna difficoltà a trattenere le loro commissioni di vendita. Quindi voglio dire, se trattengono le loro commissioni, allo stesso tempo tratterranno, cioè, se sai quanto realizza quella casa, sai anche insomma, puoi anche applicare il 21%. Non credo che loro non trattengano le loro commissioni perché hanno problemi a calcolare. Allora, vorrei dopo il traffico fare il secondo giro e l'ultimo giro sullo spunto che dava Bernabò Bocca. Attenzione, come me lo scrivono anche alcuni ascoltatori, attenzione che qua sembra che il vantaggio arrivi, lo dico male, ma per capirci, più che altro dalle sfighe degli altri. Allora vorrei sapere se è così, se siamo troppo pessimisti, se invece c'è stato un reale miglioramento del settore turistico, poi le pecore nere ci saranno sempre, ma come attenzione al cliente, capacità di vedere quello che fanno gli altri, presenza sulla rete, i servizi che vengono offerti anche in altri paesi. Devo dire una cosa, che prima mi è partito un ex rispetto a Iorio come presidente, perché l'attuale presidente a cui chiedo venia, Iorio è stato presidente fino dal 2012 al 2016, e quindi chiedo venia per l'ex. Traffico. Dimentica i compromessi, scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta Focus Economia. I just hope in the money, money, money, money, money. You love me, honey. I just hope in the money, money, money, money, money. You love me, honey. You got me singing Georgia. Allora, recuperate con le scuse a Gianfranco Battisti, presidente di Federturismo attuale, l'errore di introduzione in rapida sequenza. Iorio, Patanè e Bocca, sembra quasi una squadra di calcetto, però insomma, Iorio, sono solo le sfighe degli altri qui o il settore batti e ribatti, insomma, è riuscito a fare un salto di qualità come la qualità media offerta? No, secondo me c'è una crescita generale che è fatta essenzialmente da dei movimenti di sistema. Aumentano le persone nel mondo, diventano più ricche e sono più libere, quindi c'è più gente che viaggia e l'Europa continua a essere una destinazione cercata, e l'Italia all'interno dell'Europa è una destinazione cercata. Poi che ci siano dei fenomeni, soprattutto laddove il prodotto è magari di per sé meno attraente, un mare è comparabile ad altre destinazioni, allora lì gioca l'effetto di spostamento. Ma se pensiamo che città come Londra e Parigi, che comunque hanno subito forti problemi di attentati, comunque continuano a segnare una crescita, dobbiamo vedere un po' purtroppo l'elemento anche terrorismo come un effetto quasi ormai di sistema e di scenario non così potente in grado di spostare il traffico. Quindi lei dice non esaltiamo l'effetto terrorismo, no, e quindi direi, c'è anche un merito no. del settore turistico italiano. Sì, c'è un merito del settore, direi dell'attrazione paese nel suo complesso. C'è un rischio sulla quale bisogna vigilare in modo molto serio, che è la qualità dell'esperienza che queste persone vivono quando vengono nelle nostre destinazioni. Sono destinazioni sognate, ma quando sono troppo sature o la qualità degrada, evidentemente lì noi stiamo giocando l'avviamento del futuro di uno dei pochi settori dove abbiamo dei grandissimi spazi di crescita per il futuro. Patanè, lei che fa anche outgoing oltre che incoming, è d'accordo che ci sia stato comunque un miglioramento dell'offerta complessivamente data, pur con mille pecche, che e non solo l'effetto terrorismo? C'è stata una crescita, non un balzo, come ha detto lei. Secondo me c'è stata una crescita, è una crescita costante, però va giustamente monitorata e va alimentata la crescita dell'experience, del turista. È molto difficile, spesso ti combatti contro burocrazie, tasse, eccetera, il sistema paese deve aiutare una crescita, significa anche semplificare. Questo purtroppo è un tema che soffriamo tutti noi nel settore turistico, e da questo punto di vista ci aiuterebbe molto di più nella crescita del paese. Io penso che l'Italia nei prossimi anni, da quest'anno in poi, avrà un grande sviluppo. La classe media mondiale sta crescendo ovunque, la ricchezza cresce, l'Italia è nella testa, nel desiderio di tanti, quindi dobbiamo sta a noi accoglierli bene per farli tornare. E sono d'accordo con Iorio. Io ricordo ancora una puntata dell'anno scorso quando mi raccontaste che la regione Sardegna, che con la crisi industriale che ha dovrebbe vivere il turismo, non aveva mai convocato un tavolo con i grandi operatori, i grandi marchi internazionali per sapere qual era l'esigenza di portare i turisti. Se ne andavano a prendere con gli aerei, organizzavano i charter di vari operatori per portarsi da Mosca o altre destinazioni in Sardegna senza che fosse mai stato loro chiesto, non so, vi serve che l'aeroporto di Cagliari o di Olbia abbia delle rotte, un piano turistico normale. Comunque, Benabba Bocca, per concludere, vuole fare un appello ai suoi associati a non perdere questa opportunità. Il mio timore è che alcuni usino questi flussi come se vagina da passo, dico bene, quest'anno siamo tutti esauriti, non vanno a chiedersi che tipo di esperienza poi arriva, e questo poi sarebbe grave, perché se io vengo in Italia per la prima volta perché non vado in Egitto, resto deluso, poi non ci torno più. Assolutamente d'accordo con lei, noi stiamo sensibilizzando continuamente i nostri associati a non pensare che il più 15% di quest'anno sia un dato ripetibile ogni anno. Una crescita sostenibile per un settore intorno al 5-6%, che è stata la crescita degli ultimi anni in Italia. Quando si vede un balzo del più 15, è ovvio che questo balzo dipende anche da fattori esterni. Approfittiamo di questa situazione, cerchiamo soprattutto di fidelizzare i clienti, consci che questo è il paese più bello del mondo, che da tutto il mondo vogliono visitare l'Italia. Quindi spetta solamente a noi il compito di farli tornare. Oh, allora in bocca al lupo, perché non ho dato invece le cifre che do sempre quando parliamo di un settore, ma le ripeto adesso in conclusione del programma. Quanto vale per il nostro PIL il turismo? Sono 70 miliardi diretti, 172-173 con l'indotto, e quindi dal 4% come valore diretto al 10% del PIL se si aggiunge anche l'indotto, per quasi 3 milioni di lavoratori nel settore. Il mio sogno qual è? Non ho messo oggi a Evedream, è rivedere l'Italia al terzo posto, secondo posto, primo posto. Quando studiavo eravamo tra il primo e il secondo posto, siamo scesi al quinto come paese più visitato al mondo, e comunque in Europa siamo sotto la Francia. Grazie a tutti e tre gli ospiti, a Bernabò Bocca, quindi a Renzo Iorio e a Luca Patanè. Veramente tutto da Sebastiano Barisoni. Noi ci risentiamo domani, torna la poco invidiabile classifica di Focus Economia, e mi sa che toccherà parlare con l'uccellaccio anche di Macron, delle piramidi, dell'internazionale, dell'inno alla gioia. A domani. Radio 24, libera la voglia di fare.